24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Nuova sfida del Parlamento europeo ai governi sugli strumenti per uscire dalla crisi. I parlamentari hanno minacciato di non approvare il regolamento del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione 2014-2020 se la UE non sarà dotata di risorse proprie come la Tobin Tax o un'IVA europea, riducendo così al tempo stesso i contributi nazionali. La plenaria di Strasburgo ha approvato con larghissime maggioranze i testi del CUPEC, i regolamenti per l'ulteriore rinforzo della governance europea con sorveglianza di bilancio dei paesi a rischio e valutazione dei budget annuali che il Parlamento europeo ha emendato inserendo strumenti per la crescita come Eurobond, fondo di riscatto e fondo per la crescita. È stato invece bocciato l'emendamento presentato dai socialisti per la Golden Rule, per lo scorporo degli investimenti produttivi dal deficit. Di Tobin Tax ha parlato anche il premier italiano Mario Monti a Berlino, dove ha incontrato il portavoce del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. L'inviato del Sole 24 Ore a Berlino, Gerardo Pelosi. Il Presidente del Consiglio ha ricevuto qui nella scuola, nella business school tedesca, il premio della leadership responsabile. Parole di apprezzamento gli ha rivolto Schäuble come l'uomo che più di altri in Europa sta contribuendo alla crisi dell'Eurozona. Sulla parte dell'Italia, Monti ha spiegato che in Italia ci sono delle debolezze e delle fragilità, ma anche dei punti di forza, ad esempio il sistema bancario, che a differenza di quello tedesco è molto più solido. Certo, il lavoro sui conti pubblici continuerà e non è stata fatta una manutenzione, ma un intervento pesantissimo come sul sistema pensionistico. Il lavoro continuerà, ma non c'è bisogno di una nuova manovra. E da Berlino è tutto. Grazie a Gerardo Pelosi. E ieri il premier Mario Monti, prima di partire per Berlino, alla Camera dei Deputati ha parlato di crescita. L'Eurozona sta attraversando una fase cruciale, ma negli ultimi mesi l'Italia si è rafforzata. Dalla crisi possiamo uscire anche da soli, dice Mario Monti. Nella sua informativa alla Camera dei Deputati, il premier spiega di aver rifiutato i consigli di chi ci invitava a chiedere aiuti al Fondo Salva Stati o al Fondo Monetario Internazionale. Abbiamo avuto l'obiettivo di mostrare con le azioni che facevamo all'interno del Paese di non aver bisogno della protezione un po' paralizzante altrui. Abbiamo preferito che il Paese cercasse di fare da sé. Monti sostiene che se dal Consiglio europeo di fine mese uscirà un pacchetto credibile di misure per la crescita, lo spread italiano diminuirà. Anche il governo a breve presenterà una nuova serie di interventi per lo sviluppo, annuncia poi il Presidente del Consiglio, che per dare un segnale ai mercati chiede alla maggioranza di accelerare l'approvazione delle riforme in discussione in Parlamento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le critiche alla politica della Merkel sono state al centro delle risposte al primo ministro Monti da parte dei due leader dei principali partiti di maggioranza, Pierluigi Bersani, segretario del PD, e Angelino Alfano, segretario del PDL. Sentiamo. E allora è inutile che tutti i paesi periferici facciano la penitenza per le loro responsabilità, che devono fare se la Germania non si prende le sue di responsabilità. Dica alla Merkel che se la Germania continua in quella direzione, per quanto lei sia volenterosamente vicino ai temi della Germania, il Parlamento italiano potrebbe avere delle reazioni negative ad una certa politica della Germania. Nuova marcia indietro del ministro delle finanze austriaco Maria Fechter dopo le sue controverse dichiarazioni lunedì sera, dove diceva di non poter escludere che dopo la Spagna anche l'Italia potrebbe avere bisogno di un salvataggio. Rispondendo ieri pomeriggio a una interrogazione urgente in Parlamento, la Fechter ha detto di non ritenere che l'Italia abbia bisogno di un salvataggio. Adesso andiamo in Grecia a pochi giorni della nuova tornata elettorale. Vittorio Darol, del Sole 24 Ore. Domenica si va al voto, che si è trasformato in un referendum sostanzialmente sull'euro. Ci sono due fronti che si contendono il successo: il blocco, diciamo, pro-europeo guidato dal partito Neodemocrazia, il partito maggiore conservatore guidato da Antonis Samaras, che punta a restare saldamente ancorato nell'euro senza eccessivi rinegoziazioni, e il fronte contrapposto guidato da Alexis Tsipras, 37 anni, giovane segretario della coalizione di sinistra radicale Siriza, che invece vuole rivedere i patti del prestito, ridurre le misure draconiane pro austerity, ma restare nell'euro. Intanto però i greci continuano a togliere i soldi dai depositi bancari, c'è una fuga di circa 100 milioni di euro al giorno che ha portato il conto finale a 72 miliardi di euro in meno nei depositi bancari dall'ottobre 2009, anno in cui scoppiò la crisi. Quindi nessuno crede per ora a un'uscita imminente della Grecia dall'euro, ma intanto si ipotizza addirittura l'uso di pagherò per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici in caso le cose non dovessero andare come dovrebbero. E proprio sui timori per la situazione della zona euro a pochi giorni dalle elezioni greche e con i debiti della Spagna e dell'Italia sotto osservazione, chiudono contrastate le borse europee. Bene Madrid, Londra ha guadagnato lo 0,18%, Francoforte ha perso lo 0,14%, Parigi ha lasciato sul terreno lo 0,55%. Se Madrid è andata bene, beneficiando della buona performance delle banche, sono andate giù le altre piazze europee. Milano, la peggiore in Europa, ha registrato un'altra seduta negativa, con un calo dello 0,65%, risentendo della debolezza dei titoli ciclici. Le azioni degli istituti di credito, per contro, hanno tentato il rimbalzo, fatta eccezione delle MPS, scivolate di un ulteriore 4%, mentre il mercato si interroga su come la banca rispetterà entro fine mese i dettami dell'EU. Fiat meno 2,4%, ha perso quota insieme a tutto il settore auto europeo e ha trascinato giù anche le azioni della holding degli Agnelli Exor, meno 5%. Si sono risvegliate le generali, più 3%, mentre sono scivolate del 5,7% le A2A. Fuori dal paniere principale sono volate del 6,8% le Telecom Italia Media, nell'attesa di novità sul processo di dismissione dell'azienda. Sono inoltre volate del 15% le Gas Plus, mentre sono scivolate del 10% le Arena. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. Intanto è andata a segno l'asta di bot annuali del Tesoro di ieri mattina. Aumentati i rendimenti in Italia, ma anche in Germania. È vero, gli esami non finiscono mai e per l'Italia, si sa, il banco di prova è continuo e gli esaminatori sempre più severi, come quelli che hanno interrogato il Tesoro. Prova d'esame, asta botta, 12 mesi. Risultato, promozione stentata. Domanda altissima, oltre 11 miliardi rispetto ai 6,5 da piazzare, ma i rendimenti hanno preso il volo. Nell'analoga asta di maggio il tasso chiesto dal mercato era stato del 2,34%. Oggi, per comprare il titolo annuale, gli operatori hanno preteso il 3,97%. In primavera era sceso sotto il 2%, ma a gennaio riconosceva quasi il 6. Eravamo ancora nel periodo in cui si discuteva della famigerata inversione della curva, e cioè i titoli a breve scadenza rendevano di più delle scadenze più lunghe. Ecco perché l'aumento torna a preoccupare, perché era sì atteso e scontato, ma è stato piuttosto ampio, segno che la fiducia per come l'Italia affronterà i suoi problemi nel breve periodo è scarsa. E quindi il mercato mantiene il fiato sul collo del paese, alitando anche sullo spread, che sembra non vedere l'ora di tornare sopra i 500 punti base. E domani si torna sul mercato con 4,5 miliardi di BTP a 3,8 anni. Da monitorare però un segnale nuovo, il piccolo aumento dei rendimenti sui Bund a 10 anni collocati oggi in Germania all'1,52% dall'1,47% di aprile. Il contagio ha fatto prendere un piccolo raffreddore anche alla signora Merkel. Deborah Rosciani, Radio 24, il Sole 24 Ore. Andiamo in Siria. Indignazione per le violenze esercitate dalle milizie fedeli ad Assad, sostegno al piano Annan per la risoluzione del conflitto in Siria e forte preoccupazione per la stabilità della regione, in particolare per il Libano. Questa è la posizione espressa dall'alto rappresentante per la politica estera Catherine Ashton sulla crisi siriana, intervenendo durante un dibattito a Strasburgo sulla situazione in Medio Oriente. Ashton ha insistito sul fatto che Assad non ha spazio nel futuro della Siria, il suo regime non ha rispettato impegni e sempre meno legittimato. Il Parlamento europeo ha dato il via libera all'erogazione di poco più di 18 milioni di euro di aiuti per attenuare gli effetti delle inondazioni che hanno colpito la Liguria e la Toscana nell'ottobre del 2011. L'aiuto, di oltre 18 milioni di euro, proviene dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attivabile in caso di disastri e calamità naturali, e sarà definitivamente erogabile non appena la decisione di Strasburgo verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.